effect. Every radio and humming and can on, what you expect? Yeah, some of them be talking to me. Hey, big man, Lee, you better be sneaking around on Lee. Go by and see Steve Rose and get you something to talk on. We're definitely gonna let it 15 seconds. Six. Power. Where is the TV's a noise out here? Yeah. Wave it in here. Wave it in here. What's the gross Jesus? Let's keep the channel. We got you. Anything on the front of that? What about it? Ecco, c'è nessuno sul 10. Attenzione, c'è nessuno sul 10, Blecco. Angola, ti copio. Anti-Angola, ti copio. Attenzione, Blecco. Cambio, non c'è nessuno, cambio. Cambio, non c'è nessuno, cambio. Se vuoi va bene, se no ti rabbi le luci. Vecchi, ma non c'è nessuno a questa frequenza? Oh, buonasera, chi è? Mi senti? Ti sento, chi sei? Stazione sceriffo. Buonasera Antonio, buonasera. Subito, alla voce, ok. Vedi un po' com'è questo attrezzo, come sta uscendo? Di lusso, alla grande. E adesso, un po' di stazionare ci sarà, con quest'acqua. Ha toccato qualcosa, si è sceso il segnale. Prima arrivavi, quante? A fondo scala praticamente, adesso si è a 9. Stavi arrivando più forte, vabbè, ma non fa niente, vai, sognare comunque sempre forte. Stacca lineare. Bravo, ok, ti lascio per 5 minuti, che sto facendo cosa? Fai tranquillo, vai. Chihuahua. C'è qualcuno? Avanti, chi è? Questa parte è Carlo. Ciao Carlo, buonasera. È un giro a Polo Torres. Abbiamo migliorato. Ah, ti sento benissimo. Ho girato l'antenna. Polarizzazione verticale e non più orizzontale. Adesso sì, è la voglia. Adesso ti sento benissimo. Santiago 9 più 20, radio 5. Allora, non sono più problemi. Dai, perfetto. Ieri proprio arrivavi zero, Evidentemente da quelle parti con quel tipo di polarizzazione non si arrivava bene. Ho capito, comunque vai, da zero si è arrivato a 7, ma 2T8, perfetto. Bene Meda, almeno ho controllato anche il rosso, ho fatto un po' le prove sull'1, sul 20, sul 40 e praticamente non sale oltre l'1, quindi dovrebbe essere a posto anche col rosso. Carlo! Senti Antonio, Carlo, da Polo Torres. Adesso abbasso lo squelch perché siccome c'è molto QRM l'avevo messo al massimo, l'ho sentito. Avanti Antonio. Ok, ciao collega, comunque vedi un po' come esco da quelle parti, sempre da Porto Torre. Santiago 8 più 5, radio buona, radio 5. Grazie, ok, vi lascio, se no non riesco a combinare niente, ok. Presente che oggi c'è molto QRM, quindi trasmissioni disturbate. Ciao Carlo! Finalmente riesco a sentirsi alla grande, ma anche dalle mie parti ce n'è stato, ma lo copri di brutto, vai, ti sento alla grande. Benissimo, ma chi è entrato? Giulio, se non sbaglio. Ok, ciao Carlo, ciao Eugenio, come va? Tutto bene? Ciao zio Giulio, allora tutto a posto? Tutto a posto, e niente in ordine. Sì, tutto bene, oggi va benissimo così. Carlo, hai ottenuto un nettissimo miglioramento. E Giulio, ti sentivo bene, di colpo è sparito il tuo audio. Comunque ho sentito che ho migliorato moltissimo, e vuol dire che la lascerò così allora. Per forza, va meglio, va decisamente meglio così. Giulio, cosa è successo? Giulio? Sì, Eugenio, un attimo è sparita la corrente elettrica. No, stavo dicendo, Carlo, hai avuto un nettissimo miglioramento. Da Santiago 9 circa che mi arrivavi, sei salito quasi a 9 più 15. Tanto per dartene un'idea, no? Hai visto cosa vuol dire girare l'antenna? È questa, la polarità è quella, non c'è niente da fare. Vai Carlo. Ho capito oggi che il tempo mi ha dato un po' di tregua, sono salito nel giro di 20 minuti, ho mollato i raccordi con una chiavetta 10, ho girato e ho detto, ho incrociato le dita, poi ho misurato il rosso e tutto va bene. Sì, è perfetta, va benissimo così. Praticamente ci arrivano con lo stesso segnale più o meno di quello di Roberto, visto considerato anche tra l'altro che siete vicini come zona. Va bene, avanti, sicuramente avrei notato anche i segnali più forti o Carlo, sicuramente così. Positivo, ieri Eugenio lo sentivo a malapena in mezzo al QRM e lui lo stesso, invece oggi mi ha sentito subito e Porto Torres adesso riesco a raggiungerlo bene. Ok, ebbene, certo che sì, certamente che sì, va bene, dai. Adesso rilancio a Eugenio, dopo casomai mi dice come mi ascolti il segnale, Carlo. Avanti Eugenio. Oh, yeah. Cioè, io non riusciamo proprio a parlarci con Carlo, proprio zero, un altro po' non mi voleva lo smitter, proprio zero. Adesso invece, caspita, Santiago 7 modulati a 8 alla grande, lo sento di brutto, considera che c'è anche il corremo molto alto e riesce a trapparlo di brutto, finalmente dai. Così ci sentiamo meglio e lo stesso adesso rispondendo a Giulio per me fondo scala Radio 5. Ok Carlo, c'è sicuramente un grande miglioramento anche in ricezione, certo che sì. Sì, beh certo, prima era in orizzontale, magari non era orientata verso di te, perché quando è in orizzontale sei praticamente in direttiva e sono solo due fronti che hanno un ottimo segnale, mentre invece dalle altre due parti non c'è niente da fare, perché essendo in orizzontale è difficilissimo poter appunto ascoltare, visto considerato che tu sei in verticale e per cui il discorso sarebbe, è ovvio, no? È così. Va bene Carlo, molto molto bene, comunque ripeto, per te 9 più 15 quasi, praticamente né più né meno col segnale di Roberto, all'incirca quello, visto considerato che siete vicini anche tra l'altro. Avanti ancora, Eugenio. Carlo, l'ho già rimontata la direttiva? L'ho girata, adesso è in polarizzazione verticale. E allora lasciala stare così, mi stai arrivando quanto è Roberto Quadrato. 9 più 30, mi arrivavi 9 più 10. Allucinante, buonasera a tutti. Buonasera. Chihuahua. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Sono intervenuto solo per dire a Carlo che segnalone. Dopo Roberto Quadrato o assieme, non lo so, comunque avete un segnale allucinante, molto molto forte. Mi arrivavi 9 più 10 prima, non so come ti arrivo io, ma tu mi stai arrivando 9 più 30. E guarda, a me tu mi arrivi in fondo scala e a bomboletta proprio. Favoloso, veramente, evidentemente hai trovato la posizione giusta, lascia tutto così, perché veramente arrivi fortissimo, non forte, fortissimo, tenendo conto la mia posizione, arrivi fortissimo, veramente molto molto forte, ok? Dai, ci sentiamo dopo, avanti Giulio. Ma Piero, scusami, mi senti? Sì che ti sento, chi è? È Antonio, sono, lo sceriffo. Vedi un po' come mi senti? Sì, sempre vendi bruvi. Lascialo stare così che vai bene, Antonio. Santiago quasi no per Radio 5. No, già ci sentiamo allora. Antonio. Ma mi senti ora? Ehi, adesso ti sento, poco fa non ti sentito. Alimentazione, comunque così arriva bene. Santiago 8 abbondante, Radio 5 perfetta, non so se ti sentono gli altri. Dai, il cambio per Giulio, io vi lascio, ci sentiamo dopo, ciao a todos. Ok, ciao Claudio, ciao, a dopo. Ciao Antonio, ti sento anch'io molto bene. Santiago 9.5 quasi, 9.3 dai, va perfettamente bene, la radio è ultima, non c'è problema. Vai Eugenio. Ok, scusa se sono un ragazzo, ma so, fuggi, provo la radio e vado a fare un'altra cosa perché in attesa. Ok, ciao anche a te, un controllo mi servirebbe. Adesso hai abbassato il segnale, si vede che hai toccato qualcosa. Adesso sei Santiago 8 modulati, poco fa eri 9.5, adesso un po' di meno. Avanti ancora Antonio per Giulio. Giulio, vi saluto io che sto facendo un lavoretto e ogni tanto mi viene lo spinto di parlare a Malachino a salutare, ok? Scusate. Ma figurati a tu, ci mancherebbe, anzi è un piacere ascoltarti, non c'è problema. Adesso si è risalito di segnale, non so cosa stai facendo, se c'è qualche problemino, perché poc'anzi eri Santiago 8 circa modulati e adesso sei di nuovo 9.5 quasi, sempre modulati, per cui non lo so, vedi un po' tu. Bene, avanti Eugenio. Anche da me arriva a fondo scala, poi scende, secondo me sta a lineare, no? Io non lo so, però ho notato questa differenza di segnale, per cui glielo ho voluto dire, a meno che non l'ha fatto lui le prove in un modo e nell'altro. Va bene, avanti Carlo. E anch'io ho sentito Antonio, Santiago di 8 e poi si è abbassato parecchio, poi evidentemente ha toccato qualcosa. Da dove sta modulando Antonio? La Porto Torres. A Benemeda, Santiago 8 prima arrivava. Sì, ma io gliel'ho voluto dire, ho notato subito la differenza, perché da me arrivava 9.3 modulati 9.5 e poi è calato a 8.5 modulati addirittura, per cui anche a 8 modulati. Per cui c'era una differenza, ovviamente non so se è lui che ha fatto una prova di segnare con vari watt oppure se effettivamente c'è un problema da parte sua. Va bene, comunque si medierà, non c'è problema. Avanti oggi. Carlo, ieri mi stai dicendo che sei il capo dell'aeronautica, così è? No, negativo, io lavoro all'aeroporto e forse Claudio oppure Roberto ha detto che tu lavoravi nel settore diciamo navale, quindi scherzosamente ti ha detto quello, ma non ho niente a che fare io con l'aeronautica, io sono diciamo un lavoratore dell'aeroporto di Alghero. Ma non ha un aereo portuale, no? Essa. Come, scusa? Sì signore. Ah sì, un aereo portuale, buono, no, io sono proprio un portuale. Così va meglio l'accostamento. I lavori uguali, però con diversimenti, dai, mettiamola così. Esatto, ti sento veramente bene rispetto a ieri, perché ieri proprio, ma era la mia antenna e non riceveva i segnali, diciamo, oltre Sassari non andava bene, infatti adesso proverò qualche riscontro con Muros, con Osilo e vedo un po', ma penso che dovrei arrivare bene anche da quelle parti. Sì, a Osilo più o meno ci arriviamo tutti, Osilo è alto, tu magari dalla tua stanza forse lo vedi anche meglio. Esatto, io dal terrazzo vedo sia Porto Torres, sia Osilo, tutto il costone di Ossi, Muros, quella zona lì la vedo anche da casa. Allora non dovresti avere problemi, ma c'è sul tetto l'antenna? Sì, positivo, sul tetto, io sono in zona via Lunesole Alto, all'altezza del Bulling, per cui si vede pure il mare. E allora si è attaccata Roberto, vai. Esatto, infatti Roberto devo abbassare perché sennò rimbomba tutto qua. Senti Giulio, se ci sei ancora. Sì, beh certo, essendo molto vicini, il segnale lì è fortissimo, è anche la radio, non ci sono dubbi. Va bene, dai, comunque, sono contento, hai visto, te lo dicevo, se cambiavi orizzontale, se cambiavi verticale da orizzontale ci sarebbe stato un incremento notevolissimo di segnale, sia in trasmissione che in ricezione, ma era normale. Dopo che hai avuto il tempo per poterlo fare, l'hai fatto ed ecco qua il risultato, come appunto era previsto. Tutto io, Carlo, vai. Esatto, e oggi è giusto una tregua, ma mi sa che da domani ripeggiora il tempo, quindi ne ho approfittato, sono salito un attimo, ma in mezz'ora ho fatto tutto. E ho notato solamente che ho molto più rumore di disturbo QRM con questo tipo di polarizzazione, però mi arrivano più segnali e anche io penso di arrivare meglio. È normale, si è aumentata la ricezione, si è aumentata anche la trasmissione però. Sì, esatto, no, adesso la lascio così la provo. Ah, c'è la musica, è perfetto, il segnale di lusso. Meda, io devo fare un attimino un po' di QRX, rimango in ascolto perché c'è un lavoretto da finire, comunque sono in ascolto, magari tra 5-10 minuti rientro. Va bene Carlo, a dopo allora, dai, ci sentiamo tra 10 minuti. Bene, avanti Eugi. Vai giù, allora cosa mi racconti? Cosa ti racconto? Sempre l'antran. Stavo dicendo, quell'Antonio poc'anzi mi stava arrivando esattamente con il tuo stesso segnale, quando è arrivato a 9 qualcosina, dai. Dopo invece è calato, non so se c'è ancora. Antonio, ci sei? No, Antonio non riprende, forse aveva qualche problema, perché era evidente questo calo di segnale, appunto, e poi di nuovo che era salito e così via. Vediamo, lo richiamo ancora, se non riprendi tu, Eugi. Antonio, ci sei? No, attaccava lineare. Ah, così, appunto, è quello che volevo capire, se era lineare oppure se era problema della stazione. Va bene, allora ho capito. Comunque, quando ho attaccato mi arrivava esattamente con lo stesso segnale tuo, Eugi. Arrivo sempre 9, grazie, giusto? Sì, 9, modulati 9 più 5, tranquillamente, anzi diciamo appena da portante, solamente 9 qualcosina, 9-1, 9-2, dai, appena passata la freccetta, cioè la lineetta del 9, per cui va bene, ottimo. Tu hai sempre più o meno la mia stessa radio, no? Amicizia, sicché i segnali penso che siano più o meno reciproci, sia il mio che il tuo, grosso modo dovrebbero essere uguali. Non so se tu stai usando il Kingwood. Sì, sto usando il Kingwood, sì. Ok, forse hai quello superiore, io ho il 140. Vabbè, diciamo che come potenza più o meno è quella, dai, quando gli dai quella stessa potenza non è quello il problema, siamo a 10 watt più o meno, dai, all'incirca, poi watt più, watt meno, ma comunque mi sta segnando così, per cui non lo so, anche tu suppongo che utilizzi quella potenza. Il coso dei watt, prima quando smetto di parlare si ferma proprio sul 10, spaccato, non l'ho mai toccato. Appunto, sì che siamo lì, 10 watt, siamo lì. Va bene, va bene. Il segnale è sempre quello? Quanto è? 9, 8, 9, quant'è? 9, poi come moduli sale. E appunto, è quello che ti stavo dicendo. A parità di potenza, praticamente a parità di segnale, siamo lì. Non si sfugge, insomma, ecco, è così. A proposito, ti stai riprendendo, sì? Sì, sì. E adesso devo aspettare un po' che si rimetta a posto la gola, che sono sopra mal di gola. Sempre questa voce bassa, boh. E vabbè, ancora uno o due giorni e poi te ne liberi definitivamente di questa specie di influenza, dai. Va bene così. Va bene così, sono i mali di stagione questi, oggi, per cui si sa, può capitare a chiunque. Mia mamma mi ha fregato l'altro giorno in Tirrenia, la maniche corte fino alle 8:30. Poi mi sono accorto, stavo bene, poi ero in moto, sono uscito anche la notte in moto, ero leggero, e mi ha fregato perché sentivo che c'era freschetto e mi ha fregato lì, avevo già molto leggero. Adesso mi sa che bisogna incominciare a coprirsi un pochino, anch'io sino a stamane ero ancora con i pantaloni leggeri, quelli estivi, invece stamattina sono uscito e mi sono messo quelli più pesanti, per cui non bisogna fidarsi troppo, anch'io sino a stamane ero ancora leggero, invece oggi ho voluto cambiare, non si sa mai, sia per il fatto che magari credo non ne sentivo, va bene, d'accordo, però sai come il tempo non scherza, ogni momento ti deve vestire nel modo giusto, per cui non devi fare troppo il granasso. Veramente non so più come vestirsi. Ma è normale, no? Stiamo andando incontro al tempo brutto, cioè al tempo più freddo, e dunque ti devi coprire, non c'è altro da fare, la natura è quella, quando si va avanti col freddo anche le persone si devono attrezzare a coprirsi di più, perché se no poi rimangono fregati, ed ecco che subentrano poi i raffreddori e le influenze eccetera eccetera, invece se ti copri sei più riservato e più tranquillo. Avanti oggi. Sono le 5:15, sta già facendo buio. Ma quando ha cambiato l'orario? Mamma mia. 5:15, tanto inizieranno a entrare tutti quanti adesso. Adesso si sa, il tempo la sera è più, fa buio presto, però la mattina, per chi usciva la mattina presto, alle 7 del mattino per andare al lavoro, adesso ci sarà un po' più di luce, è diverso il discorso, no? Perché quello che abbiamo guadagnato in luce la mattina lo perdiamo la sera, è normale. Vabbè, comunque, andiamo avanti lo stesso, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Chi era quello che stava parlando sotto Eugenio? Avanti, chi era? Non lo sento più, forse la propagazione, non lo so, Eugenio. C'è un po' di corrente. Intanto mi sale a me, forse qua, perché io sono fronte mare praticamente, ho più ricezione da fuori. Sì, in effetti sei fronte al mare, sei più aperto, è chiaro che dovresti avere un'ottima ricezione, anche perché diciamo che il mare stesso aiuta molto in quanto a propagazione, ci mancherebbe. Bene, comunque anche tu mi sembra che avevi la Game Master, no? Sì, che abbiamo tutti e due la Game Master, va bene così, non c'è problema. E quando soffia vento l'hai vista come oscilla? Sì, ma tiene bene, bene, io credo che quella buffa è passata a poco, non avrebbe staccato, invece niente, è perfetta. Sì, bene, in effetti è così, ma te lo dicevo, il problema era se uno mette i tiranti è capace che te la spacca il vento, il vento. Ma bisogna mettere la lascia libera, quella oscilla, si piega un po' da una parte, un po' dall'altra, però rimane sempre integra. No, l'ho vista un'arcata, la grande, no, tiene abbastanza bene. Sono contento di questa antenna. Ma tu te l'avevi fatta artigianalmente? Prima te l'avevo autocostruita, sì, e l'ho tenuta almeno 2 anni e mezzo. Adesso ce l'ho originale, perché poi avevo fatto lo scambio. E poi tra l'altro questa antenna che ho io è l'antenna esattamente che aveva l'amico di Porto Torres, che l'aveva data a me, l'avevo presa io, perché a lui gli si era rotta, ma se gli si era rotta perché l'avevo messo i tiranti di nylon su nella punta e dunque il vento gliel'aveva spaccata a mezza altezza. E allora l'aveva venduta a me. L'avevo venduta a me e ce l'avevo da parte. Nel frattempo io avevo l'auto costruita, poi questa l'avevo data e poi l'ho richiesta di nuovo, visto e considerato che l'avevo data a un parente che non era stata lì e non l'ha mai piazzata, e allora me l'ha riportata e io gli ho dato quell'auto costruita. Abbiamo fatto di nuovo lo scambio. Prima gliel'avevo regalata io a lui, poi abbiamo fatto lo scambio, gli ho dato io quella auto costruita che andava benissimo, né più né meno come questa adesso, e mi ha riportato quella. L'ho sistemata nel modo migliore e va benissimo, non c'è problema. Vento in quantità anche qua, però regge molto bene. Io sono abbastanza contento perché, diciamo, abbastanza ricezione, va bene, per me io sono contento, insomma, per come ero messo prima, va benissimo. Sì, va benissimo, certo. Sì, io l'avevo comprata da Sandro, perché a lui gli si era rotta e l'ha tolta. Come l'ha tolta, ho fatto, vabbè, non ti preoccupare, ascolta, fai una cosa, se me la vuoi dare, se me la vuoi vendere, ha detto sì, vabbè, te la vendo, me l'ha portata, gliel'ho pagata e poi l'ho messa in ordine come dovrebbe essere e tutto va bene, non c'è problema, va benissimo. Allora a quel punto l'avevo data a un mio nipote, che anche abita a Carbonia, però non se l'avevo mai piazzata e io ero sempre con quell'auto costruita. Però nel frattempo cosa era successo? Avevo preso le misure io da quella lì originale, le misure del filo eccetera, e avevo costruito quella autocostruita. Però questo mio cugino, mio nipote, non se l'aveva mai piazzata l'antenna. Allora un bel giorno mi sta andato in mente, ma ascolta, fa una cosa, ma l'antenna non te l'hai piazzata? No, ce l'ho sempre, ho sempre un'altra. E allora fa una cosa, me la riporti? Certo che te la riporto. E tu cosa mi dai? Intanto non è la prima volta che ti ho regalato cose, no? È venuto e allora ho fatto lo scambio. Lui mi ha portato qua e gli ho dato quell'auto costruita. E anche quello non ce l'ha mai piazzata, perché lui ce l'ha un'altra antenna, non so che antenna sta usando, ma mi sembra che abbia un qualcosa tipo manto, ma stesso lì a Carbonia, mi abito e oggi. Ma un modulo anche lui modula? Quindi ha un nipote che modula? Ma è a Carbonia, però è un ragazzo che più che altro è impegnato nello studio, più che altro. Va bene, no, è qua non ci arriverà mai, come non arriveremo mai lui a Carbonia con questa radio, non è possibile, non arriverà mai lui. Perciò adesso sono un bel po' di tempo senza vederlo, perché con questo fatto del Covid anche lui, poi adesso è a scuola, non può allontanarsi più di tanto. Va bene, riprendi. Ho capito. Va bene. Il pezzo su che c'è, tu l'hai trovato, ci sono i pezzicambi o li hai costruiti tutti? No, dove c'è l'innesto, no? Siccome avevano un innesto di 10 cm più o meno, no? Lì mi aveva spaccato e allora è stato riparato, e poi gli ho messo un rinforzo io di quel tubo tubo che usano gli elettricisti per fare dei pianti esterni, no? Con la plastica su misura, una quarantina di centimetri, e ho messo 30-40 centimetri di quel tubo centrato, dove c'era appunto il problema, bene, chiuso con due anelli, uno sotto e uno sopra, e poi ben astratto, sia sotto che sopra, così gli anelli, perché gli anelli avevo messo quelle, come si chiamano, quelle specie di fascette di plastica che usano i meccanici, dai, per legare i fili, quelli, ma siccome quelli sono di plastica, col tempo si sarebbero rotti, e io ho fatto una bella passata di nastro tutto attorno, sia da una parte che dall'altra, e la cosa funziona, è una grande, veramente. Adesso è già circa un annetto che ce l'ho, per cui va bene, no? Non è successo mai niente, nonostante il forte vento, che anche qua non scherza, quando soffia. Roberto, ci sei, Roberto? Roberto Vale? Sì, Roberto oggi sarà al lavoro, non credo che sia frequenza, assolutamente, Roberto al lavoro oggi, oggi è giornata di lavoro, per cui no, sì, qualcuno può aver fatto ponte, ma non tutti di sicuro, Oggi è giornata lavorativa, cosa che secondo me è anche sbagliata, perché anche oggi avremmo dovuto fare festa come per i santi, anche per i morti avrei dovuto fare, secondo me, io la vedo così. Ora siamo in Italia, anche le feste stanno andando a essere dimenticate. Lo so, no, dico questo perché insomma la giornata dei morti, siccome in tutte le famiglie di questo mondo hanno dei morti, qualcuno se ne salverà, che non c'è stata famiglia che non ha avuto dei morti, però e allora a questo punto mi sembra che un omaggio in memoria dei defunti bisognerebbe farla. Invece no, invece dei morti non è considerata giornata festiva, è considerata giornata lavorativa, a differenza di quella dei santi, ma io avrei fatto invece giornata festiva sia per i santi che per i morti, io la penso così. Certo, anch'io. E vabbè, perché siamo in Italia, poi soggiorno in casa, non riesco a... Sto già scherzando. Appunto, sì che... Bene, bene. Adesso ho ascoltato bene la tua radio, adesso sei proprio 9 più 5 è pieno. Adesso sei 9 più 5 è pieno, si vede che hai raggiunto il massimo, indipendentemente dai watt che gli dai, però diciamo siccome quella scalda, non è come quella che io che è diretta, sempre con gli stessi watt, anche a freddo, mentre invece quella deve scaldare per rendere meglio. È così ho registrato, 9 più 5. Questa deve scaldare per lei tutti i watt, infatti. Vabbè, io sempre fermo a 10 ce li ho fatte, quindi... Sì, quello sì, d'accordo, magari il segnale è sempre quello, ti segna sempre quello a 10, però ha bisogno di un po' di calore prima per rendere veramente i 10 watt, sicuramente così, perché me ne sono accorto che è aumentato proprio il segnale, adesso è 9 più 5 pieno, per cui va bene, molto bene. Stavo dicendo ancora, ce l'hai sempre il Saturneco, ce l'hai sempre, poi ne avevi anche un altro se ricordo bene. Sì, ce l'ho, è acceso qua, Saturneco ce l'ho sempre, mi piace proprio vederlo qua acceso. Comunque quando è freddo si vede che schiaccio e la lancetta mi segna 2 watt, 3 watt, ma non male che scalda sale fino a fermarsi a 10. Sì, c'ho anche il coso, come si chiama qua, il gas Uranus, è un Midland Alan 48 Exceller Plus, quello che può stare in camper. Ho capito, sì. Lo so, lo conosco bene, quello l'Uranus, lo conosco bene. Che io ho 789 della somma, camper che ha sempre lo stesso. È la stessa radio praticamente, cambia solamente la marca, però è quella. L'Uranus con la 789 della Sommercamp, con i tazzini eccetera eccetera, e fa da 25 sino a 30, 32, una cosa del genere. Riesce ad abbracciare tutta quella frequenza lì, da 25 sino a 30, 32 se ricordo. Un po' complicato da farlo funzionare, però chi lo usa spesso non ha problemi, ma se uno lo mette da parte poi si dimentica come funziona e allora deve studiarlo un attimino di nuovo da capo. Va bene, lo conosco molto bene, avanti Eugenio. Sì, no, ma non è un problema. No, io ci modulavo tranquillamente, va bene, oramai non è più il mio, l'ho promesso a Gianni Rubroffetta, che come dopo salire a Sassari le facciamo un cambio, lui levò questo e lui mi farà un altro. Ho capito. Va bene. Sì, no, è uno un bel baracchino quello, è un bel baracchino, diciamo un pochino complicato nel poterlo urlare quando schiacci quei tassi eccetera, però è uno tuo baracchino, non ci sono dubbi. Bene, vediamo se rientra Carlo, ci sei? No, Carlo non rientra ancora, evidentemente non si è liberato dall'impegno che aveva. E così è oggi, è così. Stasera siamo entrati un pochino più presto del solito in frequenza, però a quanto sembra nessuno si affaccia. Va bene, dai, sono le 5:30 già, 5:31, dai. Entrano, adesso devo uscire dal lavoro, tra la piazza, la luce, e 6:30 così di sotto entrate. Tante volte anche alle 7 arrivano certe voci, magari è così, funziona così, non c'è da fare, i tempi belli di sentire tantissime persone frequentano. Non è più il momento, pazienza, ma va bene lo stesso. Molti sono passati anche all'applicazione della Midland sul cellulare, questi cellulari ci hanno un po' rotto, hanno rovinato un po' tutto. Già lo so, anch'io l'ho usata, ma non mi piace un granché, qualche volta l'accendo, ma raramente. E parlo con il Brasile, con l'Argentina, col Cile, con questa gente qua, non con quegli italiani, no, perché quando incominciano quei siciliani che ci sono, quei calabresi o quei milanesi che sembrano i padroni della frequenza, e allora non mi interessa, anche perché tutte le volte lì ci sono assembramenti di 25-30 persone in un solo canale, tutti quanti lì ciu. Vabbè, io quando sono entrato dove c'erano 3-4-5 persone massimo, se non è inutile cosa entri a fare dove ci sono 30 persone, e intanto raramente ti chiamano, anche se entri, e poi se ti dovessero chiamare quando fai il giro di tutte quelle persone ci passa mezza giornata, per cui non ne vale la pena. Invece io mi sposto e vado sulle frequenze argentine, cioè sulla scala argentina, oppure sulla scala brasiliana, oppure con quella dell'Argentina e cilena, e così quando vedo che ci sono due persone faccio una chiamata, l'ho fatta anche a Radieri, tranquillamente ti rispondono, anche se non c'è nessuno parlando, tu chiami e ti rispondono subito. Sì, ma non dispiace, io l'ho cancellata anche. Ciao, voi l'ho cancellata. Perché non è più bello il CB, non c'è niente da fare. Infatti il CB è tutta un'altra storia, è tutta un'altra soddisfazione. Con quella sì, arrivi in capo al mondo, è vero, perché non ci sono limiti di distanza. Tu pensa che una volta ho parlato con Franco di Sassari, con Santo Domingo, lui si trovava a Santo Domingo, ci siamo sentiti e appunto abbiamo fatto quella prova e si sentiva benissimo, non c'era problema, ma per dire. Ma non mi appassiona più di tanto, no. Preferisco di gran lunga del Marachino, è tutta un'altra cosa. Sì, lì si parla tramite internet, quindi è normale che arrivi a tutto il mondo, e comunque non mi piace. Infatti, anch'io non è che mi piace molto, non mi piace un granché, è come telefonare praticamente, e se si ha col telefono arrivi dall'altra parte della terra, te lo credo, ma poi a quel punto cosa te ne fai, che soddisfazione hai avuto di parlare così? Nessuna, a me non è che mi garba troppo. Pazienza, dai. Io mi allontano un attimo, dai, che devo, mi sono ricordato che dovevo controllare una cosa prima, ossia che poi me ne dimentico di nuovo e finisce male la questione. Dai, scendo giù e devo controllare una cosa, oggi. Fai giù, tanto io sono qua, non c'è problema. Fai. Ok. A dopo. Hola. Anti. Dentro 10? C'è qualcuno sul 10? Dentro 10? Avanti, comunicare. Ciao Gianfranco, no, ho girato l'attimo dai canali, poi ho messo in FM, ho visto questo segnale allucinato, che cos'è poi? Il mio allucinato. Se parli così, chissà che idea ci fanno. Con quanti quali sono? 5 watt scarsi, neanche 4. No, ma in FM questo apparecchio non l'ho mai capito come mai, forse non è adatto per l'FM. Arriva alla fondoscala il segnale, a 9,60 è arrivato, che cazzo è successo? No, lo fanno tutti, guarda, lo fanno un po' tutti. Sventiando con network, che rottura di va bene, allora cosa mi racconti di bello? Niente, naturalmente. Allora, quel documento l'ho aperto, Gianfra, e col computer, col cellulare non ci sono riuscito. Sì, evidentemente deve essere qualche applicazione per aprire quel tipo di documenti. I cellulari, per quanto sia, sono sempre limitati sotto quel profilo, anche per motivi di sicurezza. E niente, quindi è andato sto bene. Sì, e poi, vabbè, mi dovrò andare del codice, c'è scritto collegarsi alla piattaforma Cisco Webex Meeting. Che cos'è questa cosa? Ah, Cisco Webex Meeting è una videoconferenza. Ah, ha detto volgarmente, non è una cosa tipo WhatsApp, Skype, cose del... Sì, no, lo so, devo fare videoconferenza, perché devo parlare sia io che loro, ci dobbiamo sentire tutti e due, però non è una, come si chiama, tipo Skype, una cosa così? Sì, guarda, Teams di Windows, di Cisco, SK Skype, alla fine è tutta la sua minestra, videoconferenza in parole povere. Sì, è soltanto un'applicazione particolare, una piattaforma, diciamo, il risultato è uguale, solo che cambia, come dire che tu sei Tisca di email, l'altro è, ti posso dire, che Yahoo o cosa ti posso dire, qualunque altra cosa. Sì, ognuno fa la sua tiritera, la seconda del progetto che ha, magari ci mette qualche fiorellino, qualche pianta di banane e così via, però poi fanno la stessa cosa più o meno. Adesso, cambiando discorso, stavo ascoltando un radioamatore che fa grosso, molto famoso, è responsabile di una scuola, tra l'altro, di radioamatori, nel senso, per fare le patenti, cioè, e stava spiegando, siccome lui c'ha la patente americana pure, il radioamatore dice che negli Stati Uniti il limite di potenza sono 1500 watt, non 500 come da noi, non ci sono problemi a trasmettere in digitale, ci sono delle differenze che, dice, qua in Italia ce le possiamo scordare, nel senso, neanche sognare. E ha parlato un po' in generale di tutto il discorso dei radioamatori americani, eccetera eccetera. Se c'è un italiano negli Stati Uniti con la patente italiana può utilizzare 1500 watt. Sì, va bene, ci hanno dei limiti imposti dalla FCC, però guarda che lì quando commetti qualche cosa non è come in Italia, qua non ne frega niente oramai di niente, fra picchiare la gente in strada e se proprio ti va male ti mettono il braccialetto. Di là negli Stati Uniti se fai un reato federale perché stai facendo trasmissioni appena al di fuori sono dolori e vengono direttamente col fucile, ti sfondano la porta senza neanche suonare il campanello. Chissà di cosa ti accusano, quindi sai, a noi i 500 watt, guarda, se immagini che la dotazione extra delle navi 500 watt, io con antenne tra l'altro verticali, tu figurati quanto possono servire 1500 watt, solo per, come al solito, per scavalcare tutti gli altri nel contest, tutto lì è il discorso, la prepotenza. No, io dico, insomma, sono molto severi, è tipo quando fai un eccesso di velocità ti fanno il processo, ti condannano, secondo me ti mettono anche dentro, secondo quanto te lo dico, perché è successo a una persona che conosco, eccetera eccetera, sono molto severi, però gli americani sono quelli che utilizzano la prepotenza, a parte i russi, vabbè, i russi di lì non ci capisce, visto che c'è mezzo la dittatura, come mai si utilizzano queste potenze e non le rompono le scatole, magari sono più tolleranti da quel punto di vista, però gli americani, visto che c'è questo limite di potenza di 1500 euro, quelli sono tutti potenze di qualche decina di kilowatt, pure qualcuno russo. Sì, però è contro in tutte le cose, capito? Basta vedere cosa è successo alla fase del clima lì. Sì, va bene, d'accordissimo, ci avete ragione, però io lo faccio nel 2090. Nel 2090 non so se siamo ancora vivi o se il pianeta è distrutto. Che bella idea, no? Vabbè, quello del clima, ci sono tante cose, stanno sparando tante fesserie. Io ho sentito uno scienziato premio Nobel, ha detto che il clima dipende il 5% dall'uomo, il 95% dipende dalla natura, ci sono spostamenti magnetici e cose del genere, per cui da lì è che nasce i cambiamenti climatici. Questo è un premio Nobel, ha spiegato tutto quanto, da lasciar perdere tutte le fesserie che raccontano, perché la Terra è talmente grande e l'uomo influisce in percentuale. Certo, se tu mi parli di inquinamento nei fiumi, dei laghi e nei mari, quello tanto quanto, ma nell'aria assolutamente, ha spiegato, assolutamente è impercettibile, cioè influisce, se tutto quello che c'è collegato nel mondo influisce non più del 5%. Ascolta, a me queste cose me ne entrano dall'orecchio e me ne scolo all'altro, perché può essere anche chiunque questo, però c'ha di fronte altrettanti scienziati, ma soprattutto i satelliti, centinaia oramai di satelliti che ci ronzano attorno, che dicono tutti la stessa cosa, e quindi si continua a dare retta a una persona che ha dimenticarsi degli altri 100.000 che dicono il contrario, e tutti gente degna di nota, ma poi lo vediamo noi. Ma guarda, io sono anche d'accordo, le dico, diamo ragione a questi, però purtroppo noi a causa del tempo, diciamo in termini di vita, non lo vedremo, però faremo la fine di certi film di fantascienza già in paesi lì dell'Indonesia, in quelle zone lì, anche se ovviamente non ne parlano perché sono discorsi scomodi, figuriamoci, dire che stiamo andando male è molto scomodo, però c'è gente che ha perduto la terra perché oramai sono preso al mare, ma non è niente comunque, cosa vuoi che sia quando ci sono 100.000, 200, 300.000 morti, non sono persone per gli altri, poi quando tocca agli altri. Sì, allora quello che stai dicendo tu io lo accetto, però questo l'ha spiegato scientificamente, ci sono delle cose che succedono nell'arco di centinaia di migliaia di anni che si cambiano il magnetismo terrestre, addirittura ci si sta spostando di non so quanto, sono quelli che influiscono su un clima. Certo, se tu c'hai gli incendi in Australia che hanno creato anidride carbonica, un'evaporazione esagerata, e mille chilometri dopo si forma una pioggia di quelle eccessive, esageratamente forti, ma non c'ha niente a che vedere con i cambiamenti climatici, quelli che dicono loro che le stagioni stanno cambiando, quello è dovuto alla natura, non c'entra niente l'uomo, se parliamo di queste cose che dico io. Se parli per dire c'è stato il vulcano Krakatoa che è esploso nel 2000 avanti Cristo, eccetera, eccetera, ha creato una nube di coso, quella è un'altra cosa. Però la produzione di anidride carbonica dell'uomo è talmente limitata a confronto a tutto il resto, influisce quasi niente sul clima, e questo l'ha detto uno dei più grandi scienziati del mondo che studia queste cose qua, e non l'ha detto uno stupido, l'ha spiegato scientificamente, come ai tempi di Annibale, quando c'è Giolà le Alpi, del coso, ai tempi dei Romani con il coso, con gli elefanti, eccetera, eccetera, lì c'è stato un cambiamento climatico, mica scende in mezzo alla neve con gli elefanti, c'è stato un cambiamento che è fisiologico nell'arco dei millenni e delle centinaia di anni. Ma guarda, io ho parlato con uno scienziato che ho avuto il piacere di portare all'aeroporto, che era spagnolo, in tempi anche non recenti, e già lanciava questi allarmi, ed era ostacolato anche da altri interessi nella sua zona. Quindi o questo le è venuto qualche colpo al cervello o si è preso una grande imbriacatura, però ripeto, la scienza è conoscenza e la scienza si basa sempre sulle controprove, e le controprove su questi fatti sono inconfutabili. Ripeto, satelliti, misuratori tramite sonde, tutta la tecnologia umana che è disponibile ha accertato questo in tutte le parti del mondo, quindi ne hanno da cantare e da gridare. Però qua non ci soffermiamo sulla negazione di tutto, perché sennò arriviamo fino a Gesù Cristo, che in realtà non è nato per il semplice motivo che non poteva risorgere, l'hanno fatto fuori, chissà dove è sepolto, ed è così, perché finiamo di lì. Nessuno sta negando il fatto che succeda questa cosa, però che sia causata dall'uomo in maggioranza, e questo l'ha dimostrato, nessuno sta dicendo certo che sta succedendo cambiamento climatici, ci sono, però non sono dovuti per questi problemi del coso, dell'effetto serra e tutte queste cose che stanno dicendo, questi influiscono in minima parte, perché l'ha fatto fisicamente, calcolato matematicamente, non è una cosa detto così. Noi ci dobbiamo preoccupare non tanto di questo cambiamento climatico, che non lo possiamo modificare noi, e anche se tu chiudi tutte le fabbriche non succede niente, perché nel periodo quando non esistevano ancora le fabbriche, negli anni nel 700, nel 800, ci sono state lo stesso questi cambiamenti climatici, e basta guardare la storia e vedi cosa ci sono stati, alluvioni, cose, eccetera, eccetera, è scientificamente provato. Noi dobbiamo stare attenti all'inquinamento, quello è che è la cosa più problematica, perché se tu inquini